sono il capo dei Sioux e vivo sì con la mia tribù. Noi siamo gente organizzata, furti e rapine a mano armata. Sai che c'è che ora voglio te. Tuo padre sì, è il capo della Digos, vorrebbe già che tu sposassi un figo. Da quando ha visto la mia faccia, non smette più di darmi la caccia. Sai che c'è, mi servirò di te, così gli ho fatto uno scherzetto. Ho messo sì una mina dentro il letto, la braccia per farci l'amore, esplode sì facendo un gran rumore. Sai che c'è, vengo in casa da te. Scopro soggetto interessante, fornito sempre di alibi stringente. Risolvo problemi di denaro in modo sempre assai poco chiaro. Sai che c'è il futuro innanzi a me. L'attività sale di livello, riciclo e sparisco questo e quello. Ricatto, ma non per avarizia, soltanto per piegare la giustizia. Sai che c'è, son pronto per te. Non sono più il capo dei Sioux. Non vivo più con la mia tribù. Adesso